su Sanabria in pieno recupero. Oggi il programma si apre alle 12.30 con... Poi ci avremo Lazio Monza e Cagliari Parma, alle 18 Lecce Bologna, alle 20.45 Napoli Capolista ospita l'Udinese, lunedì sera nuova puntata di Inter Fiorentina, che poi trionfo dei viola giovedì scorso nel recupero, e a chi li fa... È la sveglia del mattino, notiziario di Radio Venere. Questo viaggio... Attenzione Dormiglioni, Dormiglioni della domenica, ci siete? Attenzione Dormiglioni della domenica, ritiratevi presto il sabato notte, se no poi la domenica non avete voglia di svegliarvi. Dobbiamo fare l'appello tipo Mussolini. A tutti i CB di cielo, di terra, di mare, svegliatevi. Se lo capite l'italiano ve lo dico in sassanese. Incidetevi che un tempo è meglio. Chi è all'ascolto e non risponde balla la Lecce. Oh, anch'io già ho gli occhi a mezz'asta, ancora. C'ho gli occhi tipo... come il cricetto quando si sveglia dal sonno, a mezz'asta, devo riuscire con un caffè ad aprire l'altra metà della palpebra. E vabbè, piano piano, con un po' d'acqua fresca, si spalanca tutta la palpebra, per cui non c'è problema. Vabbè, a fra poco, dai. Va bene, intanto una canzone sassarese. Vuoi rispondere sì o no? Daniele mi pare. Ehi, c'è anche Giulio che sta facendo radiodiffusione. Radio Giulio, Giulio avanti. Meno male che qualcuno si sveglia presto la mattina, non molto, no, perché sono mezzogiorno meno 20 quasi, per cui avanti, evviva il sonno, evviva i sonnolenti. Giulio sta arrivando più Pio, vabbè, adesso guarda a vedere che stai sbagliando, mi guarda che non è come dici tu. Adesso si ragiona Giulio, buongiorno, saluto e ci voglio a tutti. Ciao, ciao. Ciao Daniele, ben entrato. Io sono Pio Pio, io ho 4 watt, ma se volete posso anche migliorare. Colazione o pranzo? E prosecco anche. Avete parlato in due. Io sono più bravo, dai, sono il più bravo. Marco, cosa hai fatto? Colazione, pranzo e anche prosecco? No, no, niente prosecco, niente alcolici, almeno la mattina. Oh, yeah. Bene, bene, bene. La giornata è un po' incerta, c'è un po' di sole, un pochino scoscura, perché stavamo valutando se andare in campagna, però non lo so. Vabbè, quello dipende da te, dalla voglia che hai di andarci o meno. Vero Daniele, vabbè, come si va, da quelle parti? Si va Giulia, si va, stiamo correndo. Da una parte all'altra. Accidenti alle sovrammodulazioni, accidenti alle sovrammodulazioni, ma adesso non lo sanno quelli del continente che qua ci siamo noi, perché se ne vengono qua a rompere l'anima? E vabbè dai, comunque già va bene lo stesso, oggi non è una gran bella giornata, comunque non è nemmeno così tanto brutta come dalla parte orientale della Sardegna, perché lì c'è veramente pioggia come si deve. A 4 catinelle, Marco. Marco, l'abbiamo perso. Anche lì sta piovendo, Daniele. Ma c'è il sole, Giulio. Meglio così, meglio così. Il sole è sempre bello, bello da vedere e da sfruttare, e soprattutto per scaldarci quando fa freddo come oggi, 13 gradi a Sassari. Già va bene, già va bene. Ieri ero un po' così, oggi invece quando fai già c'è un po' di sole, dai, già va bene come giornata. Poi già scalda un pochino, piano piano. Già lo credo che è già scalda, e se lo facciamo un po' di movimento ci scaldiamo da soli, senza bisogno di avere il sole, ci scaldiamo lo stesso, se non accendiamo la stufa, che problemi ci sono? Poi, con tutte le comodità della vita, per cui sfruttiamole pure. Gava, gava, sta sollevando il QRM però, Daniele, sicuramente ho migliorato da te per ovviare al QRM, K. 9.10 sei Marco adesso. Va bene, va bene. No, dicevo Giulio e cose. Ho detto, se il sole tiene, vabbè, si può andare in campagna, se no se si annuvola e piovigina, che ci dobbiamo tappare dentro, tanto vale starsene a Sassari, dentro casa. E direi proprio di sì, meglio a casa se piove, anziché andare in campagna che c'è anche più umidità tra l'altro, per cui tiriamo avanti. No, ma non dovrebbe piovere oggi, perlomeno stando alle previsioni non ce n'è da queste parti pioggia, qui a Sassari, poi nelle zone limitrofe non lo so, va bene così. Matteo Tidili ha dato questa notizia, Tidili sarebbe il meteorologo della Sardegna. Avanti Daniele. Va bene, va bene. Speriamo che tenga, anche se l'acqua ha bisogno, diciamo siamo senza acqua e quindi deve piovere. Ci siamo messi bene, oi oi. Poi sulla Nuova hanno detto sempre di lavori a Banoa, quindi a giorni alterni in certi quartieri mancherà l'acqua. Vabbè, qua non manca quasi mai, più che altro nei quartieri limitrofi manca. Vabbè, speriamo di no. Io sto leggendo, Marco, tutti i giorni c'è un lavoro, lo so, una condotta, quella e quell'altra, io sono, io vabbè, da sola, ci sta. propagazione, mi pare, no? Ho detto CQ, CQ e poi boom. Arrivato, ma più forte di Giulia arriva questo. È anche più potente, quasi, ma più potente anche Daniele. Disturba moltissimo, disturba moltissimo. Purtroppo la propagazione ha sempre ragione lì. Vai, dove mi posso attrizzare, Giulio. Non c'è problema. Cambio e mi attrizzo. Carico la matrice e metto in centrifuga. Qua sei 8 e mezzo, Daniele, come al solito, intorno all'8 e mezzo. Già va bene, già va bene. Sto usando pochi watt, Marco. Sì, i watt della radio, dai, io qua sono 6-0. Già va bene, già va bene. Io ho 6-0 con uno 0 in più. Cioè, 600. E si conferma. Allora non sono pochi, sono tanti. Ma io sono pochi. Si attacco il drone, attacco la matrice e vedi. Ah, così lo chiami, il drone. Ascoltate, mi dite com'è la modulazione. Questo baracchinetto era tutto impolverato, l'avevo lasciato qua in mezzo alle scatole e poi l'ho pulito tutto, eccetera. Va bene la modulazione? Mike originale, ovviamente. Un attimo, l'amico che ha fatto break. Sì che va bene la modulazione, io ti sento bene. 600 ne hai, Daniele. Ma allora stai arrivando basso qui da me, se ne hai 600. No, non sono liscio adesso. Adesso sono col K, però dall'altra parte c'ho la lavatrice col drone. Ah, ho capito, aspetta che c'è un amico che è entrato col suo buongiorno, che io gli ricambio. Avanti l'amico col buongiorno, forse Giovanni. Giovanni, tu sì. Ok, ciao Giovanni, buona giornata a te. Oh Marco, tu probabilmente non lo senti, dai. Sta andando da mangiare i canalini, meglio così, anche loro hanno diritto di mangiare. Avanti Marco. No, infatti non lo copio. Ho provato ad aprire lo squelch, ma non segnale zero, cioè sento il QRM e boh. Non sento nemmeno una modulazione a filo di QRM, nulla, proprio negativo qua. Perché lui ha un'antenna un pochino provvisoria, per cui, ma già mi aveva detto io giorni or sono che si attrezzava, per cui fra un po' di tempo lo sentiremo come si deve, veramente. Nel senso che si fa sentire a tutti, non solamente da me. Probabilmente non arriva nemmeno a Itiri. Daniele, tu l'hai sentito Giovanni da Sorso? No, Giulio, negativo. E a parte a voi due, poi sento propaganda con Gru. Lo so, poi c'è anche propagazione, tra l'altro, intanto copre. Giovanni, dimmi se tu senti sia Daniele che a Marco. Ok, ma anche Daniele senti, sì? Ho capito, c'è propagazione, cioè stanno parlando da fuori, dalla Sardegna, e dunque diciamo che sovrammudano tante volte. Sì. Lo so, ma Daniele comunque arriva più basso perché sta modulando da Ittili o Giova, per cui è quello il motivo. Marco, ti sente? A te ti sente? Ha detto basso, ma ti sente. Anche a Daniele sente, però basso. Avanti Marco. Con l'antenna, quella a bastone mi pare che abbia, praticamente la bazooka la fa la Midland e la Sirio, però più di tanto non si può fare, dai, ci vorrebbe un'antenna full size sul tetto. Sì, l'ideale sarebbe l'antenna una bella 5 ottavi, così si fa sentire dappertutto anche lui. Va bene, dai, ma intanto sarà solo questione di tempo, poi ci penserà senz'altro per rimediare la sua stazione, per cui va bene così. Avanti Daniele, ti senti anche a te a Sorso, Giovanni? Avanti Daniele. Addirittura, se a Sorso arrivo, Giulio. Certo che ci arrivi, perché non ci devi arrivare, già lo credo. Basta avere l'antenna performante E ci arriva, già lo vedo che ci arrivi. Anche se ha detto che ti sente basso, ma il fatto che ti sente basso anche a me probabilmente, anche a Marco, ma dipende solo esclusivamente dalla sua antenna, perché ha una specie di bazooka o Daniele, è una di quelle antenne tipo bastone di scopa, dai, così, tra virgolette. Per cui è questione di tempo che già si attrezza, ma aveva promesso che si attrezzava. Avanti ancora Daniele. Cava. Già la conosco quell'antenna, qual è? Quella che quanto è? 1,5 metri come antenna, ed è grossa, così è, nera. Un metro, ed è una mezz'onda praticamente, Giulio. A quanto ho letto, se tu l'apri e vai a misurare questo avvolgimento di cavo, di conduttore, se tu lo svolgi tutto è 5,50. È come che fosse una mezz'onda però lunga un metro, raccorciata, capito? Sì, infatti è per quello che viene soppressa la sua modulazione e anche il segnale. Perché per quanto ne so io, quel tipo di antenna, lo dico anche per te Giovanni, quel tipo di antenna è un'antenna che si usava sulle barche, ma sulle barche è diverso il discorso, perché c'è tutto il piano riflettente del mare, e allora qualche resa in più ce l'aveva e ce l'avrà ancora qualcuno, non lo so. Comunque così, è un'antenna che era stata costruita soprattutto per le imbarcazioni, cioè per le barche, per i pescatori, eccetera, eccetera. Avanti Giovanni. Va bene, attendiamo, siamo qua, fine mese già è vicino, non è che sia poi così tanto lontano, siamo già quasi alla metà del mese. Marco stava dicendo che si è comprato un alimentatore da 50 ampere, probabilmente uno di quei alimentatori che se costa poco, di quelli cinesini, che funzionano bene tra l'altro, so che funzionano molto bene. E l'antenna a fine mese dovrebbe comprarsela per poi appunto montarla, eccetera, eccetera. Va bene, aspettiamo Giovanni, non c'è problema. Non è pane quotidiano l'antenna, però è una cosa che è abbastanza importante metterla per farsi sentire, tutto lì. Avanti Daniele. Gaba. Speriamo bene che poi con l'altra antenna riusciamo a sentirlo molto meglio di adesso. Che adesso siamo un attimo in condizioni sfavorevoli, diciamo. Direi proprio di sì. Ma come hanno sempre detto gli americani, 10 lire per il trasmettitore e 100 per l'antenna, e hanno ragione, non si può dire di no, hanno ragione veramente, perché anche se uno ha un apparecchietto così da 4 soldi, però se ha un'antenna performante, diciamo che risolve quasi tutti i problemi di ricezione e di trasmissione. Avanti Marco. Sì, dicevo, mi chiedevo, i pescatori, che oppure chi va in barca, che ha la radio CB, solitamente usava anche quelle antenne proprio per barca, quelle bianche di colore, che ha degli attacchi a vite per fissarla, solo che hanno una resa un po' scarsa. Cioè, va bene se sei in mezzo al mare, il mare fa da specchio, ma volendo uno in barca, dipende poi che barca è, si potrebbe mettere una mezz'onda e ovviare al problema della salsedine usando quella gomma spray. Esisteva una gomma spray, tu puoi ricoprire l'intera antenna con questa gomma spray, oppure gomma liquida da passare forse col pennellino, e riesci a isolarla completamente dalla salsedine. Allora ha senso, perché se no, se lasci l'alluminio nudo in mare col vento, la salsedine eccetera, te la distrugge in poco tempo. Sì, beh, indubbiamente sì. Dunque a quel punto lì, allora la più indicata anche per la barca dovrebbe essere un'antenna tipo Game Master, così, perché in fibra di vetro e dunque non dovrebbe intaccare la salsedine, non le dovrebbe fare niente, anche perché poi sarebbe facile da pulire, perché è leggera, la tiri su in un attimo, cioè la tiri giù in un attimo e la pulisci tranquillamente dall'eventuale salsedine che si dovesse depositare a ridosso dell'antenna. Ma è così, è vero, Marco, hai ragione. Avanti, Daniele. Gara, l'altro giorno c'avevo la Pirte 1, ho messo la PLC 1000 in macchina ed ero a Sassari, tra Daniele, dove c'è, come si chiama? Ma vicino a Globo. E stavo parlando sia con Romero che con Alghero. Sì, e beh certo, la PLC 1000 era un'ottima antenna, un'antenna mobile, non ci sono dubbi. Io ce l'ho avuta la PL800, che è più o meno simile, anzi la 1000 è anche migliore perché è un po' più lunga, per cui più performante, perché lo sappiamo benissimo, l'antenna più lunga è più performante risulta, non ci sono dubbi, è vero. E poi la Sigma ha sempre fatto dei prodotti molto buoni per la 27 e suppongo anche per le altre frequenze, non lo so, ma suppongo di sì. Io la verità mi sono trovato sempre bene col materiale della Sigma. Avanti Giovanni anzi. Beh, sicuramente sarà stata migliore di quella che stiamo usando adesso, perché se avevi la LEM senz'altro è migliore di quella bazooka lì, non ci sono dubbi, questo è scontato. Ripeto, quell'antenna che hai tu è adatta per la barca, perché poi sfrutta la cosa, il vantaggio del mare, lo specchio del mare sfrutterebbe la barca essendo in acqua, mentre invece quella così come ce l'hai tu a casa non è un granché, non è proprio un granché. Va bene, dai, comunque non molto avrai l'antenna nuova anche tu, non ci sono problemi. Avanti Marco. Io ho provato a prendere, sempre per la mia curiosità, queste cosiddette antenne da camper o barca, e la fa sia la Sirio che la Midland, credo che sia la stessa antenna identica, non ricordo la sigla. Questa antenna praticamente funziona senza piano di massa, no? Senza piano di massa, ed è uno stile in fibra di vetro lungo, quanto sarà, un metro e quindici, qualcosa del genere, no? Allora, non hai stazionarie, però ha una resa talmente bassa, ti faccio un paragone, io l'ho messa in macchina, sono andato a piazzare i segni e ascoltando il QSO del latte dolce, per esempio Graziano mi arrivava tipo Santiago 2, arrivava bassissimo, cioè queste antenne non ho capito che senso abbiano, perché tu te la metti nel camper, però va bene solo se sei in colonna tra camperisti, oppure se sei all'interno del camper stesso per comunicare lì, però in distanza non fa niente, non ha senso, ti dirò che lavora peggio della bazooka, e proprio non ho capito il senso di questa antenna, e non è rotta o malfunzionante, è proprio fatta così. Vabbè, avevo fatto prove di ricezione, di trasmissione, però è così. E se tu guardi la zona della bobina, qualcuno l'ha aperta e ha fatto vedere le foto su internet, è strana la bobina. C'è questa specie di... come spiegartelo? Non lo so, è strana comunque. Non ha molto senso come antenna, perché ti costa e rende meno della bazooka. L'unica cosa positiva è che non hai stazionarie. Io credo che comunque, se sei in mezzo al mare, che c'è lo specchio d'acqua che fa da riflettente, magari rende meglio, perché se no non ha alcun senso un'antenna del genere. Tanto per il camper sappiamo bene che tu ti metti sul tettuccio, te la fissi come vuoi tu, un'antenna normale veicolare, poi gli fai la massa riportata, c'è un cavetto dal basamento dove la fissi, lo fai arrivare al telaio del camper, alla fine funziona, te la tari e funziona bene come una normale antenna di macchina, capito? Quella invece è una porcheria, aspetta che cerco la sigla, per curiosità ve lo dico, vado a pigliare il cellulare. Ok, sì, in effetti sul camper diciamo che quasi tutte le antenne hanno una trasmissione assolutamente scadente, a meno che uno non si faccia un bel piano riflettente sopra l'antenna, sopra il camper, con tanto di piatto o metallico eccetera, e fa in modo che possa sembrare installata su una vettura normale. Allora il discorso è diverso, ma generalmente quelli del camper la mettono sul parafango anteriore, la mettono l'antenna, e per cui le serve ed è basta per comunicare così quando sono uno dietro l'altro, in pratica questi camperisti. Però diciamo che è già noto da tempo, da sempre, che il camper è un pochino un mezzo poco adatto per la 27, salvo appunto quello che ti stavo dicendo, fare un bel piano riflettente sopra, e così almeno hai una buona massa e avrai senz'altro una buona resa. Ma non tutti fanno questi lavori nella maniera più assoluta. Ci vuole uno competente che sappia fare certi lavori, perché se no è come fare un buco nell'acqua. Va bene, avanti Daniele. Ciao ragazzi, riprendi Giulio, che sto facendo una prova. Fai la prova Daniele, fai la prova, tutte le prove che vuoi, siamo qua. Avanti Giovanni. Ok Giovanni, e guarda, se vuoi prenderti un'antenna che va bene ugualmente, ti puoi prendere anche una Venom, guarda, computer, non costa molto, credo che costi intorno 60-70 euro, non di più, se non vuoi spendere per dire 150 per la Game Master. Oppure ti puoi prendere anche un'altra antenna, tipo quella che ha Marco ha una discreta antenna che va bene, no? E costa intorno ai 45-50 euro. Poi vedi un po' tu, guarda, il computer ce ne sono tanti, ce ne sono. È interessante che tu scelga una 5 ottavi, perché sicuramente a te ti serve una 5 ottavi. Perciò poi il tipo di antenna va bene sempre. È interessante che sia un'antenna lunga 7 metri, circa 6,90 m per l'esattezza. E dai, siamo lì su quella misura. Poi può essere 6,20 m, può essere 6,50 m, ma intanto poi la lunghezza fisica viene recuperata dalla bobina eccetera, per cui la lunghezza in realtà è sempre 7 metri. Va bene, dai, vediamo se è rientrato Marco. Marco? Zappa, allora l'ho trovata, è identica per tutte e due le marche, vi aspetto. La Sirio la chiama Sirio GL27, GL sta per groundless, cioè senza massa. La Midland la chiama X Turbo Camper 27, ha l'attacco PL sotto, PL femmina, no, queste sono fatte per essere montate tipo a specchietto con una staffa, però allora lunghezza 1,14 m, però appunto è un carico fittizio, cioè non hai stazionarie, non prendi QRM, ma è un carico fittizio, proprio ha senso solo se guidi in colonna con il camper o all'interno del campeggio stesso, però la resa è drammaticamente bassa. E allora tanto vale che uno si prenda una veicolare normale da 1 metro, 1,20 m, 1,30 m o anche 1,5 m, se la mette, come hai detto tu, parafango, purché gli faccia la massa effettiva. Con un'antenna normale ci vuole la massa, no? Anche se qualcuno ha detto che la massa riportata non si fa, ma alla fine l'importante è che ci sia la massa. Porti un cavetto che va dal telaio del metallico del camper ed ecco che è risolto, capito? Sai cos'è? Sul tettuccio del camper poi non puoi mettere antenne troppo lunghe sul tetto, perché se vai in un sottopassaggio, a seconda di quanto è basso, anche se in filo d'acciaio si curva a tal punto che puoi storcere lo stilo d'acciaio, capito Giulio? Sì, infatti il problema del camper è proprio quello. Perché? Perché la gente non si farà mai, o quasi mai, si faranno un piano riflettente sopra proprio, perché il camper comincia a essere alto, anche perché poi vanno sotto gli alberi, eccetera, e si fanno danno, non c'è niente da dire. Ecco per quale motivo se la mettono sempre sul parafango anteriore della macchina, di solito lì. Però anche così chiaramente c'è una grossissima perdita, soprattutto il gabinato ostruisce, come avere un muro davanti, perciò in una certa direzione può andare bene, ma dall'altra parte no. Tu sai benissimo che quando si mette su un parafango praticamente l'antenna diventa direttiva, per cui non va bene, mentre invece quando l'antenna è messa al centro del tettuccio della macchina diventa omnidirezionale, spara dappertutto in uguale modo, mentre invece il campo questo non può ottenerlo. Perché? Perché ha il gabinato e dunque essendo sul parafango, ecco che c'è un muro davanti, non va bene. Poi c'è qualcuno che ha azzardato a farsi il piano riflettente sopra, naturalmente deve essere fatto come si deve, non deve essere fatto solamente con un pezzo di filo così per portare massa, no, così non è sufficiente, ci vuole proprio un piano riflettente. Però ripeto, non sono tutti che si fanno questo lavoro, proprio per il motivo che ti ho detto, cioè gli alberi, qualche tunnel, insomma il garage soprattutto, tutte queste cose qua, è un problema per il camper. Va bene, avanti Gianni. Lo so, Giovanni, anzi, ogni tanto mi viene di chiamarti Gianni. Giovanni, dipende sempre dalla tua antenna, ha poca ricezione, non è solo la trasmissione, è anche la ricezione, perché l'antenna quando è performante ha guadagni sia in ricezione che in trasmissione, è ovvio, è normalissimo. Vediamo un po' se è rientrato Daniele. Avanti Daniele, cosa stavi inventando? Daniele, non riprende Marco, ma scommetti che voleva attaccare il 600, il 600 voleva attaccare a me, perlomeno questo qui è una mia intuizione, o Marco? Sì, probabile che la voglia testare. Sì, stavo guardando in particolare quell'antenna lì, appunto. In macchina è drammatica l'attenuazione, ho provato a fargli anche la massa forzata, ma non ne ha bisogno, non guadagna nulla. Cioè, ti costa 60 euro quasi quell'antenna lì, ed è un carico fittizio a Veru, vabbè. Poi ho visto anche un prodotto che non sapevo che esistesse. C'è un antennino CB per camper che funziona attraverso il vetro. Attraverso il vetro tu li attacchi questa cosa all'interno, questa scatolina all'interno, tu all'esterno attacchi questo antennino con una base quadrata piccolina sul vetro, penso che sia adesivo o magnetico, per induzione ti trasmette il segnale all'esterno ed è piccola, 65 cm, però appunto essendo 65 cm renderà come un'antenna da 65 cm, non può essere mai paragonata a un'antenna da 1,5 m, 2. Non di certo, ci mancherebbe, il discorso è sempre quello, tutto è rapportato in base alla lunghezza fisica dell'antenna. Se l'antenna è lunga hai una certa resa, se invece è corta resa non è cercare, perché intanto non ne avrai mai. Il discorso è questo, purtroppo funziona così, questa frequenza, non è questo, non stiamo parlando di giga, stiamo parlando della 27, stiamo parlando, per cui è così. Va bene, dai, ad ogni modo vedremo un po' cosa sta combinando Daniele. Daniele, sì? Daniele non riprende. Riprendi tu, Giova, dai. Ieri, ho parlato col tuo vicino di casa, Giova, per cui già ti conosce, mi ha detto che già ti conosce. Ok, sì. Eppure, com'è la tua antenna, com'è la Marco? Puoi dire quella, e cosa costa? Così almeno lui può scegliere adesso a fine mese. Oh Marco, io gli avevo consigliato la Game Master veramente, però naturalmente poi quello dipende da lui, quello che vuole comprare. Come si chiama la tua antenna, che non me la ricordo esattamente il nome, e cosa costa di lì? Oh Marco, già ti sente lui? Vediamo, fra poco rilancio Daniele, dovrebbe essere lui. Allora, Midland Energy 5 ottavi, Energy o New Energy 5 ottavi, però mi, se la piazza deve isolarla in ogni giunto bene, con l'agglomerante, perché sennò gli dura da Natale a Santo Stefano, come è successo a molti CB, che gli entrava l'acqua nella bobina e salivano le stazionarie. La mia c'è già a maggio, marzo, aprile, maggio, a maggio farà 12 anni l'antenna. Incredibile. Oppure Sirio GPE, mi pare sia quella al 5 ottavi, Sirio GPE è uguale alla stessa antenna, e costa sui online 65 euro, 65 più la spedizione, 65, 70 più la spedizione, dai. Copiato Giovanni. Allora l'antenna si chiama Energy 5 ottavi, tu scrivi sul computer Energy 5 ottavi, però stava dicendo Marco che deve essere ben sistemata nelle giunzioni, cioè, per cui dove ci sono spifferi che potrebbe entrare acqua dentro l'antenna, va protetta con un altro agglomerante, per cui in modo che non passi acqua eccetera, e dura una vita, perché lui ce l'ha 12 anni addirittura, eppure va bene, non c'è problema. Mi stavi dicendo Marco che forse è rientrato Daniele, vediamo. Daniele? Eccomi. Cosa stavi combinando? Io ho pensato che stavi preparando il 600. Di cappella non lo posso fare perché c'ho problema in uno spettore e non ne ho altri. E allora, alla prossima puntata. Ok, attenta agli espressioni, soprattutto quando mi si carico, attenta agli espressioni, perché se non sono perfetti fa fumo poi. Ok, avanti Giova, hai capito quello che ti ho detto al riguardo dell'antenna? Energy 5 ottavi. Aspetta Giulio, aspetta Giova, digli che è un'antenna di tipo leggero, pesa 2,5 kg, buccia tutto, cioè non è come una mantova che è pesante. Con quell'antenna non ha bisogno nemmeno di tirantare, se la mette bassa. Aspetta che sta modulando. Infatti Giovanni, infatti a riguardo di quello mi ha comunicato Marco che è leggerissima come antenna, che pesa più o meno 2,5 kg così, però va bene, funziona, perché lui ce l'ha già da 12 anni, montata con criterio, ripeto, dove ci sono tutte le giunzioni, tutti i posti dove potrebbero entrare dell'acqua, allora deve essere protetta dall'agglomerante, cioè dal nastro agglomerante, in modo che uno lo ripari da qualsiasi diciamo così spiffolo di introduzione di acqua verso l'interno eccetera. Perciò vedi un po' tu, ma mi sembra di aver capito che l'hai trovata alla cosa, al computer, mi sei considerato che hai detto che era più leggera quella. Ok, vabbè, decidi tu quella che ti va più a genio e quella che più ti compete in fatto di qualsiasi cosa, cioè anche in fatto di soldi eccetera, quello lo devi decidere tu, per cui interessante che tu ti prenda una 5 ottavi, quello è interessante, quello è molto importante. Avanti Marco. Sì, guarda, come concetto la Venom è simile, però la Venom non ha una bobina degna di questo nome. La Venom c'ha quella bobina ridicola con quel filo che sarà un millimetro a malapena di diametro, e non regge watt, capito? Se li carichi watt lì bruci la bobina. E non me la sento di consigliarla. Sì, costa ancora meno la Venom, addirittura c'era un periodo che la vendevano a 40 euro, quanto ero spedita o giù di lì, però boh, l'hai vista quella bobina, Giulia? No, quella bobina è, ma per carità. Sì, lo so, come poi c'è quel il discorso che bisogna anche spararla alla perfezione quando uno la monta. Io l'avevo giorni fa, gli avevo consigliato, se lui può offendermi, di comprarsi da Game Master, così almeno la monta è già pronta, non deve fare altro, non deve tarare, non deve niente. Ma gli ho detto solamente che è molto flessibile, però piazzarla, come gli ho detto io, regge sicuramente, perché prendiamo anche l'esempio di Gianfranco a Monteoro, prendiamo l'esempio di Eugenio a Porto Torres, posti dove il vento è fortissimo, eppure è piazzata con criterio, l'antenna funziona alla grande. E poi possiamo fare anche paragone con la zona dove abito io, che il vento qui ne soffia in grandissima quantità e l'antenna funziona, perché gli avevo detto di innestare un pezzo di tubo fra il primo e il secondo elemento, un pezzo di tubo da elettricisti ben nastrato da una parte all'altra, ai due capi, e dunque il punto più debole è proprio lì, tra il primo e il secondo elemento nella Game Master. Per il resto è una canna da pesca, anche se si piega non succede niente. Gli avevo detto così Marco, poi vedrà lui cosa vuole fare. Avanti Daniele è andato a soffiare il fuoco per l'arrosto sicuramente. Avanti Giova, non lo so di quale antenna stai parlando, non lo so proprio, guarda, non ho idea, non saprei. Vabbè, comunque, guarda che il computer ce ne sono tante, te ne scegli una, e ripeto, interessante che sia sempre una 5 ottavi, quello è interessante. Poi per il resto vanno tutte bene, indipendentemente dal fatto che ci può costare 50 euro come può costare 250 euro, dipende dal tipo di antenna. Però ripeto, per me, per conto mio, io la Game Master ce l'ho, costa 150 euro, 148 per l'esattezza, in certi altri posti sempre la Game Master può costare anche 200 euro, per cui gira i negozi e vedi un po', ordina dove più ti conviene, e io la penso in quel modo. È leggera, anche perché la monti e non devi fare niente, devi solo schiacciare la portante e parlare, tu basta che tu la metta un pochino alta dal tetto, o almeno un paio di metri, se la metti poi 4-5 metri è l'ideale, sopra il tetto, cioè più alta del tetto, è l'ideale, perché la posizione ideale per la Game Master sarebbero tra i 4-5 metri, anche 6, però io ce l'ho a due metri nemmeno dal tetto e va bene lo stesso, per cui va bene così, poi non fa TVI, non fa niente, insomma va bene, io sono contento con quella. Avanti Marco. Cappa, sai cosa ricomodo la Venom comunque? Perché io ne ho una, un esemplare mezz'onda, no? Praticamente non la devi nemmeno tarare, cioè quando ti arriva di fabbrica ci sono dei segni col pennarello sugli stili, no? Tu basta che metti il segno e il pennarello a filo dell'altro stilo, lo fai rientrare intanto da vedere il segno e il pennarello, cioè, ci sono dei segni, dei riferimenti, la stringi le fascette e funziona perfettamente, ti copre 200 canali, bella centrata, senza stazionari M27, capito? Quindi non devi perdere molto tempo a tararla, però è un'antenna ambigua, perché te la vendono in tante versioni, a parte che ci sono di tante marche, c'è marcata Eco Antenne, che la Eco non esiste più in realtà, è come che avessero comprato il marchio i cinesi o chi per loro. E allora ti arriva con tanti nomi, poi l'antenna fanno la mezz'onda, fanno allora la 5 ottavi con i radiali, ma sono radiali da 30 cm, quindi non sono nemmeno caricati, sono dei pezzi di alluminio da 30 cm, io non ne ho mai visto 5 ottavi con radiali così ridicoli. Poi ti fanno la mezz'onda senza radiali e poi ti fanno anche la mezz'onda con gli stessi radiali, che la mezz'onda non ha bisogno di radiali, e poi ti fanno anche la 5 ottavi senza radiali. e sono delle configurazioni ambigue. A me dà l'impressione che sia la stessa antenna in tutte le versioni, tutte la stessa antenna, e ci mettono in una radiale e nell'altra no, nella mezzone radiale e nella 58 no, capito? E la resa sicuramente è peggiore di una normale 5 ottavi, anche tipo la Energy. La Energy ha almeno 3 radiali da 1,30 m, non caricati, è alluminio, tondino di alluminio. La Venom è ambigua, c'è una le configurazioni della Venom che Venom sono ambigue, a parte che io avevo chiesto la mezz'onda senza radiali, l'avevo chiesto al venditore espressamente e mi hanno mandato la Venom con i radiali, che se non li voglio mettere non li metto, però visto che ci sono li ho messi, l'avevamo provata a casa del Profeta la Venom, però rendeva come un quarto d'onda, rendeva come la Boomerang full size un quarto d'onda, quindi alla fine rende un po' pochino, ecco. La 5 ottavi magari ti renderà come una mezz'onda normale, ecco. Sì, e beh certo che sì, sicuramente i radiali se ci sono è un vantaggio, perché fa da piano riflettente, è normale, no? Suppongo che sia così, perlomeno tutte le antenne di un certo criterio, prendiamo ad esempio la Grazioli, ha 4 radiali ma ce li ha lunghi 2,70 m mi sembra che sono, una cosa del genere, eppure è un'antenna da 300 euro circa come costo, sì, è fatta come si deve, tutta quanta bella in acciaio eccetera, credo che sia, o qualcosa di simile che non si arrugginisce, però costa 300 euro quasi, è pazzesco, io non la comprerei mai, la verità, a parte il discorso che è senz'altro una grandissima antenna, forse la migliore in circolazione per la 27, questo non te lo so dire, ma suppongo di sì, perlomeno per come ne parlano tutti tutti quelli che appunto si interessano di 27, dicono che la Grazioli sia la migliore, poi non lo so. Poi c'è quell'altra che prima della Grazioli com'era, Marco, quella con due antenne, una più lunga e una più corta, che ce l'aveva Claudio, se ricordo bene, non mi ricordo come si chiamava quella, una cosa del genere. Ah, quella era, allora non mi ricordo la marca, è una J-Pol, non ha radiali, sì, la parte dove c'è lo stiro parallelo serve per accordare quella parte, la sezione di adattamento. Poi inizia a irradiare, in realtà la parte che irradia è dopo quell'elemento parallelo, da lì in su, capito? Però credo che sia più costosa quella lì, molto lunga anche, perché è una 6 ottavi o 7 ottavi d'onda mi pare, non mi ricordo. Sì, 7 ottavi d'onda mi sembra che sia, una cosa del genere, 7 ottavi d'onda credo, in pratica 3 quarti d'onda praticamente, più o meno, dai. Sì, la J-Pol, sì è vero, è vero, non mi ricordavo più il nome com'era, ma comunque poi si vedrà, anche quella costava un bel po', so che costava oltre i 200 euro, per cui non so se ne vale la pena comprare un'antenna così costosa per la 27, io ripeto, al massimo dovendola comprare una oggi di antenna non spenderei più di 150 euro per comprare l'antenna per la 27, tanto più che ci sono antenne performanti come appunto la Game Master, io ad esempio avevo preso la Mantova Turbo, costava 145 euro, che poi tra l'altro adesso è appoggiata in un angolo a casa, perciò va bene, l'ho tolta solo per il fatto che mi faceva rumore alla notte quando c'era vento, i radiali fischiavano, proprio un fischio vero e proprio, nel vero senso della parola, e allora mi dava fastidio la notte alle 2-3 mattino, io non volevo sentire questo fischio che proveniva appunto dai radiali dell'antenna, e l'ho tolta. Avanti Gianni. Benchi, scusate, sono fatto un attimino la radio. E niente, no, ho già avuto quella, dal discorso, l'energia di 5 ottavi, tanto tempo, e va bene, la voglia, senza niente da dire, anche qua l'ho avuto un periodo, coprendo la propagazione? Qua no. Comunque io guarda, la preferisco sempre la tua lavanda, ma la cambierei, Ehi, a Daniele, la Mantova era una grande antenna, peccato che la Sigma non ci sia più, la Sigma italiana, no? Cosa volevo dire? Ho perso il filo, vai Giulio. Ok, beh, il fatto di, scusa Giovanni, c'era poc'anzi c'è la propagazione, ti ha coperto, il fatto di costruzione meccanica, la Sigma è quasi imbattibile. O quasi, perché ne sono più che convinto, perché è una costruzione favolosa. Tu pensa, la Mantova Turbo ha il primo elemento che ha addirittura 4 cm e mezzo di diametro, poi a scalare andando e diminuendo sino all'ultimo radiale, che è sempre anche quello molto ma molto resistente, che tra l'altro ha una punta di alluminio pieno, sì, che ti puoi immaginare, va benissimo, e io l'ho tenuta per tanti anni piazzata, nonostante non è stata mai tirantata, non ne ho messo mai tirante nella sua maniera, non me l'ha mai piegata al vento, è sempre bella, dritta, proprio come il giorno che l'ho comprata. Poi quando l'ho tirata giù è anche bella, pulita, tutta di lusso, è nuova, sai cosa vuol dire nuova? Mi ritrovo con un'antenna in un angolo in mansarda conservata che io non utilizzerò mai più. Tu mi dirai, ma disfate, e cosa me ne faccio quando mi disfo e mi danno 100 euro che cosa ho risolto? Niente, invece è così, un domani non si sa mai, mi salta in mente che mi si rompe quella che ho adesso, la posso rimontare, per cui me la tengo, tanto 100 euro non mi fanno né più né caldo né freddo, per cui va bene così. Avanti Daniele. Brava, brava. Con la Mantova ha migliorato un po' di recensione adesso, di confrontare la mia Mantova. Sarà però un leggero miglioramento c'è stato. Direi quello che vuoi, però la penso così almeno, poi non lo so. Sì, diciamo che l'antenna ha una buonissima ricezione, però ti devo dire che la Game Master è più silenziosa, solo che ci sono dei vantaggi nella Mantova Turbo che io ho ripeto, quando avevo il K potevo anche trasmettere in 40 metri, intanto la radio aveva l'accordatore dentro contenuto, per cui potevo accordare, no? E non c'era problema, mentre invece con la Game Master questo non succede, non può succedere, perché rispetto alla Game Master, rispetto alla Mantova Turbo, la Game Master è un pochino più sorda, dunque in 27 è più silenziosa, la Mantova Turbo è molto più rumorosa della Game Master, questo sì, però a parità di resa più o meno si equivalgono, forse la Mantova è un pochino superiore, ma non ti credere più di tanto, al massimo può essere un punto S, Daniele, non più di tanto, va bene, avanti Giovanni. Sì, confermo che la Mantova Turbo pesa 4,5 kg, 5 kg più o meno, rispetto ad esempio alla Game Master che pesa 2 kg, 2 kg e mezzo, non di più. Anche altre antenne ci sono leggerissime, come quella che ha Marco ad esempio, che pesa pochissimo e vanno bene. Diciamo da quel punto di vista, in fatto di lavoro, di fatica, uno è agevolato quando ha un'antenna un pochino più leggera, però si sa, non è che uno può. Se non ha la capacità e la forza per poterla piazzare, una Mantova un pochino più pesante, si fa dare una mano da qualcuno e la piazza ugualmente, questo va bene, però hai ragione, è vero, la Mantova Turbo pesa di più di altre, ma ci sono anche altre antenne, penso che addirittura la Glazione peserà ancora di più, visto che ha 4 radiali lunghi 2,75 m, oltre a quello centrale, poi che anche quello lunghissimo, per cui, e poi tutto è in acciaio, so che è pesantissima, è costa però una barca di soldi, ma veramente tanti tanti tanti, all'incirca 300 euro grosso modo. Va bene, avanti Marco. Sì, la Grazioli, allora, la qualità dei materiali comunque è eccelsa, è il top, penso che sia superiore alla Mantova, cioè ti danno tutta la bulloneria, inox, l'alluminio è dei migliori, di diametri notevoli, insomma come materiale è fatta veramente bene. A me piaceva la mezz'onda perché la 5 ottavi è troppo impegnativa, pesante, grande, però la mezz'onda per me sarebbe un'opera d'arte ed è una mezz'onda che ti costa 200 euro, però tu la piazzi quella e ti dura 40 anni, 50 anni. Molti direbbero, ma mezz'onda per mezz'onda, allora mi prendo la Ringo, mi prendo la Venom. Ho detto sì, sì, prendetevi la Ringo, poi voglio vedere quanto vi dura però, perché io l'ho avuta la Ringo, meccanicamente dopo un anno era da buttare, praticamente si era sfilato lo stilo dall'isolatore, sai cosa ci avevano messo per tenere lo stilo infilato in questo anello isolatore? Un goccio di silicone, e oscillando col vento si stava togliendo lo stilo dall'isolatore, rischiava di cadere lo stilo, era tenuto dalla molla solo. Quindi la Ringo si costa 40